Déjà vu del pioniere. Le repliche di fumetti a sinistra. Un mondo dentro al balloon. Storie di pace e di guerra per la campagna Riarm. Artiste ed artisti contro la guerra e contro il riarmo. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E buongiorno a tutti per questa trasmissione promossa dal CRAP e dalla Radio Fujiko. La stagione canonica di Fumetti Sinistri, Un Mondo Dentro il Balloon è terminata la settimana scorsa, ma continuano gli appuntamenti con delle repliche, trasmissioni scelte per in qualche modo contribuire alla campagna che la radio con l'assenso convinto del CRAP porta avanti, quella del riarm, artiste ed artisti contro la guerra e contro il riarmo. Quindi sono spunti di vario genere che comunque ragionano sempre in termini di pace, di parole disarmate e disarmanti, direbbe il Papa. Quindi dopo lo stacchetto musicale cominciamo questa rassegna che ci terrà impegnati per il mese di giugno. Joe Sacco è arrivato a Baghdad al seguito dei Marines americani. La cronaca di ciò che ha visto è in un fumetto di 8 pagine distribuito dai quotidiani di tutto il mondo. Joe Sacco è un giornalista a fumetti. Che cos'è un giornalista a fumetti? Il primo libro di Joe Sacco, Palestina, ha lanciato questo genere nel 1992. È un fumetto che racconta violenza e oppressione. È una riflessione sulle responsabilità del reporter nei confronti dei lettori e della realtà. Ero come ossessionato da quello che succedeva nei territori occupati. Vivevo a Berlino e disegnavo locandine rock e ogni tanto fumetti. A un certo punto ho pensato, perché non andare sul posto e raccontare la mia esperienza? Quando sono arrivato lì, qualcosa è cambiato e anziché scrivere delle mie esperienze personali, ho iniziato ad intervistare la gente, raccogliere informazioni e a fare il giornalista. Quando sono arrivato, non avevo alcuna esperienza di quel genere di cose e temevo di non essere all'altezza. Non sapevo niente. Non avevo idea di cosa stessi facendo. Era una specie di tentativo. Per la verità, avevo paura. Ero spaventato quando non ce n'era bisogno. Non lo ero quando invece avrei dovuto. Ho capito l'importanza di inserire me stesso nei disegni per quello che la mia figura rappresentava, una sorta di pronome personale io che si aggirava sulle scene. In questo modo si vedono le cose attraverso il mio punto di vista. E il lettore deve saperlo comprendere. Non mi considero un cronista di guerra, forse qualche volta ho riportato la cronaca di quei luoghi, ma comunque sono un fumettista. Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Ma è molto interessante il fatto che quando il fumetto, il linguaggio del fumetto viene applicato al giornalismo, cioè al racconto del reale, questa equidistanza cade, perché Joe Sacco non pretende minimamente questo. Lui si disegna nelle vignette mentre beve il tè in casa con i palestinesi, si fa raccontare, e poi c'è un bellissimo capitolo di Palestina però dove lui approccia per strada a Gerusalemme due ragazze israeliane. E loro hanno paura all'inizio di questo straniero che viene lì a fargli delle domande, di cose di cui magari preferiscono anche non parlare. Però piano piano lui riesce a vincere la loro resistenza e racconta anche il loro punto di vista e racconta la loro paura in questo caso rispetto a quella situazione che era la paura però moltiplicata per 100 e per 1000 dei contadini palestinesi. Questo per dire che il giornalismo a fumetti a volte è vicino a una definizione che è quella del new journalism, che è quella che diede un grande inviato di guerra, Kapuscinski, polacco, Ryszard Kapuscinski, che ha scritto tantissimi reportage, e lui parlava di, in un libro che si chiama Il cinico non è adatto a questo mestiere, che bel titolo che a me piace molto perché anche questo va contro una certa visione asettica del giornalismo. E lui diceva che il migliore giornalismo è quello intenzionale, cioè quello che racconta per puntare a un cambiamento della società. Cioè non racconta per testimoniare, certamente, ma lo scopo del racconto è anche quello di provocare un cambiamento. Ecco, mi sembra che un autore come Joe Sacco, anche nella sua opera successiva che si chiama Goraz de Area Protetta, dove invece va nello scenario dell'enclave bosniaco-musulmana di Gorazde assediata dai serbi, anche in questo caso lui ascolta le persone, fa il mestiere del giornalista, quello che, come si diceva una volta, consuma la suola delle scarpe, perché va sul posto, incontra molte persone, raccoglie le testimonianze, poi realizza il fumetto. E in questo c'è un altro aspetto interessante, secondo me, del graphic journalism, che è il fatto che per sua natura il fumetto richiede tempo. Non è che si disegna una tavola

وللنمس الملكوت وخلتني أطوى بشريتي فلا فلختي والشجوى الصبابتي والجوى ووجدى الفوادي إن هي إلا دلال خبرني بكربي وخيبتي بعيدا عن ناموسك كيف لا أسجد عزما فلا جناني في معبدك أو نغماتي توحدي طرب فرحتي إن هي إلا دلال Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.